sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Trecento arresti tra Milano e Reggio, un maxi blitz svela il nuovo volto dell''ndrangheta, la sua cupola. A rischio in Italia la libertà di espressione, interviene l'ONU contro la legge sulle intercettazioni. Nel PDL bufera per l'eolico, l'opposizione chiederà la sfiducia per Cosentino, i finiani potrebbero votarla. Oggi manovra al voto, Napolitano, non possiamo lasciare ai giovani questo debito. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Una maxi operazione che ha svelato il volto della nuova 'ndrangheta, la scattata questa mattina sull'asse Milano-Reggio Calabria. Un'inchiesta che va al cuore di quella che ormai è la più potente malavita organizzata italiana. Lo chiamavano l'avvocato, è stato uno dei fondatori della Lombardia, nome della costola meneghina dell''ndrangheta, ed era lui ad avere il compito di coltivare legami con politici locali e promuovere investimenti nell'immobiliare, lui a riaffermare anche al nord le regole della casa madre. Pino Neri da Pavia avrebbe convogliato i voti delle cosche su Giancarlo Abelli del PDL, il marito di quella Gariboldi già arrestata per le bonifiche nell'area Monte City. Ad indicare questo nome Antonio Chiriaco, direttore dell'ASL pavese, ora in carcere. Direttamente dalla cosiddetta provincia, una sorta di cupola calabrese, Neri aveva ricevuto mandato di porre ordine nella strategica Lombardia dopo le spinte autonomiste del boss Novella, ucciso proprio per le sue fantasie, riportano le intercettazioni. Ed è ancora lui a presiedere il summit del 31 ottobre 2009 a Paderno Dugnano. Qui, nel centro per anziani Falcone e Borsellino, intorno ad un tavolo i 22 referenti delle famiglie lombarde e leggono per alzata di mano il mastro generale Pasquale Zappia. Patti e prescrizioni valgono per tutti, declama Neri in un discorso programmatico a conferma del radicamento decennale delle cosche, una presenza tale da assicurare anche delle talpe al libro paga a Milano, dunque proprio come a Reggio. Ma quando i boss scoprono che l'inchiesta è anche nelle mani del procuratore Ilda Boccassini, stavolta si dicono non la scampiamo. Raffaella Calandra, GR24, sulle 24 ore. E il commento di Roberto Galullo. La via di mezzo tra l'indipendenza e l'unità per l''ndrangheta è il federalismo criminale. La maxi retata sull'asse Milano-Reggio Calabria testimonia che ormai l''ndrangheta padana esiste, è forte e lotta insieme a quella calabrese in un rapporto paritetico. Un'evoluzione logica, naturale. Platì, la capitale armata dell''ndrangheta calabrese, da oltre 40 anni si è spostata alle porte di Milano, nella ricca e verde Bucinasco, dove le famiglie furono spedite per la sciagurata legge del confino. Da lì hanno dapprima sfruttato l'aria e poi, con la forza della violenza e dei soldi accumulati con lo spaccio internazionale della droga, hanno spodestato Cosa Nostra e dettato legge, negli appalti e nella politica, seguite negli anni da decine di famiglie calabresi delle coste ioniche e tirreniche. L'operazione giunge al momento giusto perché negli ultimi 2 anni, dopo l'omicidio Novella, le cosche calabresi stavano preparando canovaccio e regia per la partizione dei subappalti milionari in vista di Expo 2015. Il colpo di oggi sull'asse Milano-Reggio quantomeno dimostra che lo Stato c'è e batte l'ennesimo colpo. Roberto Galullo, GR24, il sole 24 ore. E ora la notizia dell'ultima ora che vi abbiamo dato nella nostra breaking news, un appello che arriva dall'ONU. Il governo italiano deve abolire o modificare il progetto di legge sulle intercettazioni perché, se adottato nella sua forma attuale, può minare il godimento del diritto alla libertà di espressione in Italia. Parole del relatore speciale dell'ONU sulla libertà di espressione, Frank LaRue, in un comunicato. E la politica italiana intanto è alle prese con un'altra bufera, quella per l'inchiesta sull'eolico. Una struttura riservata costituita dal faccendiere Carboni, dall'imprenditore napoletano Martino e dall'ex esponente della DC Campana Lombardi e poi i due referenti politici, il senatore del PDL Dell'Utri e il coordinatore del partito Verdini, indagati come il sottosegretario all'economia Cosentino, un gruppo impegnato a tramare per pilotare nomine di politici e magistrati amici, ma anche per aggiudicarsi affari milionari. Gli investitori investigatori delineano così la struttura della cosiddetta P3, il sodalizio scoperto dopo ore e ore di intercettazioni telefoniche nel corso delle indagini sull'eolico in Sardegna. L'inchiesta, come prevedibile, scuote anche la politica e alimenta soprattutto le polemiche all'interno del Popolo delle Libertà. I vertici del partito fanno appello al garantismo e rivendicano la presunzione di innocenza per gli esponenti indagati, ma la minoranza che fa capo al presidente della Camera incalza chiedendo le loro dimissioni, in particolare quelle di Cosentino. Se non farà un passo indietro, siamo pronti a valutare le mozioni di sfiducia presentate dall'opposizione nei suoi confronti, avverte il Finiano Bocchino. Una prima mozione è stata presentata oggi dall'Italia dei Valori, lo stesso si appresta a fare anche il PD, mentre l'UDC ha già annunciato che voterà la sfiducia a Cosentino. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in questo clima oggi è rush finale al Senato per la finanziaria. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Con la discussione generale hanno preso il via in aula Palazzo Madama i lavori sul decreto correttivo. Il relatore Azzolini ha illustrato quanto fatto in commissione bilancio. Sono intanto 1700 gli emendamenti presentati, difficilmente però ci saranno modifiche al testo, si aspetta solo il maxi emendamento del governo su cui l'esecutivo porrà la fiducia. Il via libera del Senato è atteso per giovedì, la manovra passerà quindi alla Camera, dove si dovrebbe chiudere il tutto per fine mese. Tra le questioni ancora aperte ricordiamo i fondi per la polizia, per i diplomatici, per i precari del Centro Nazionale Trapianti ed ancora il nodo delle regioni. Domani ci sarà una nuova conferenza dei governatori, sarà l'occasione questa per mettere a punto un dossier sugli effetti che i tagli avrebbero sui servizi ai cittadini. I bilanci delle autonomie vengono bocciati intanto oggi dalla Banca d'Italia, il tradizionale bollettino statistico di Via Nazionale evidenzia come il debito degli enti locali sia salito a maggio toccando quota 113,7 miliardi di euro con un incremento del 2,5% rispetto a fine 2009. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie, un monito arriva dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Possiamo discutere delle scelte da fare, delle misure da adottare, ma non c'è dubbio che non possiamo continuare a far pesare sulle spalle dei giovani un debito pubblico così pesante. Napolitano ha parlato così questa mattina da Trieste. Ma c'è un altro dato diffuso questa mattina: gran parte della ricchezza italiana sfugge al fisco. Nel 2008 il sommerso economico è stato stimato tra un minimo di 255 e un massimo di 275 miliardi di euro. I dati sono dell'Istat, secondo cui il peso dell'economia sommersa è compreso tra il 16,3 e il 17,5% del PIL. Oggi a Bruxelles intanto è in corso l'Ecofin, tra poco attese le parole di Tremonti. Sono gli stress test per le 91 banche europee a stressare parecchio i ministri finanziari. Il motivo è semplice. Che cosa accadrà se qualche istituto uscirà con i bilanci malconci dalla prova virtuale di crisi? I governi dicono che si tratta di ipotesi lontane. In realtà si stanno preparando al peggio e lo hanno detto a ripetizione nelle riunioni di ieri sera dell'Eurogruppo e questa mattina all'Ecofin. Se necessario, saremo pronti ad agire. Se in caso di shock economici negativi emergesse un pericoloso vuoto nei mezzi propri di qualche banca, si teme in particolare per qualche banca regionale tedesca o cassa spagnola, agire significa ricapitalizzare. Prima si tenta per via mercato, poi per via governativa e infine c'è la rete di sostegno europea. Il fatto che i ministri litighino ancora su che cosa dovrà essere pubblico e che cosa no, innanzitutto in relazione all'esposizione delle banche al rischio del debito sovrano, i famosi titoli greci, portoghesi e secondo alcuni anche britannici, dimostra che la tensione è alta e che fino al 23 luglio, quando sarà comunicato l'esito dei test, si ballerà parecchio. Antonio Poglio Salimbeni, GR24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E sul fronte della crisi in Italia, un bilancio lo fa oggi Confesercenti. La crisi fa ancora paura. Nonostante segnali di ripresa e previsioni positive da parte degli economisti, la percezione degli italiani è diversa. L'88% non crede che il peggio sia passato. Il 93% è allarmato dalla situazione economica. Lo dice l'ultimo rapporto Confesercenti ISPO, il terzo da ottobre dello scorso anno, calcolato su un campione di oltre 800 persone intervistate a maggio. A fronte di questi dati, l'associazione teme un'ulteriore contrazione dei consumi, con ripercussioni anche sulla situazione turistica e il settore del commercio, che potrebbe arrivare a fine anno con 30.000 unità in meno dopo le oltre 100.000 perse in 5 anni. Il presidente di Confesercenti, Marco Venturi. C'è la necessità di ridare fiducia e di rilanciare quindi l'economia per frenare non solo, diciamo, questo stato di preoccupazione, ma la perdita effettiva di ricchezza del paese. La preoccupazione più grande è quella per il mercato del lavoro, soprattutto al centro-sud. A temere sono i lavoratori dipendenti, al pari di dirigenti e liberi professionisti. Oltre la metà degli intervistati ha paura di perdere il posto. Cassa integrazione e disoccupazione hanno coinvolto il 23% delle famiglie, ossia una su quattro. Il rapporto tiene anche conto del giudizio degli italiani sull'operato di istituzioni e forze sociali. In questo momento cala la fiducia nel governo e nell'opposizione. Sale invece la stima nelle imprese e negli enti locali. Maria Chiara Grandis, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Colf e badanti in Italia sono sempre di più e sempre più irregolari, lo afferma una ricerca, in questo caso del Censis. Sono sempre di più le famiglie italiane che ricorrono a colf e badanti. I collaboratori domestici hanno infatti raggiunto la cifra record di 1,5 milioni. Donna, giovane, immigrata è il profilo del collaboratore che emerge dall'indagine del Censis. La maggioranza guadagna meno di 1,000 euro, ma una fetta consistente riesce anche a superare questa soglia. Ancora molto diffusa anche in questo settore la piaga del lavoro nero. Oltre il 60% di colf e badanti non sono in regola. In particolare 4 su 10 sono totalmente irregolari. Il Censis sottolinea inoltre il problema della sicurezza sul lavoro, i rischi invisibili per i collaboratori domestici. Il 44% ha avuto almeno un incidente sul lavoro nell'ultimo anno, ma la loro sicurezza sembra essere un problema avvertito solo in parte dalle famiglie. Un lavoratore su 3 denuncia di non ricevere alcun supporto in tal senso da parte del datore di lavoro. Chiara Di Michele, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Gran caldo anche oggi, 10 le città segnalate dalla Protezione Civile, 4 sono al più alto livello di allerta, sono Bolzano, Bologna, Genova e Roma. Andiamo oltre Alpe e andiamo in montagna, parliamo del Tour de France, oggi si torna a scalare con il Colle della Madeleine, Pier Augusto Stagi. Esattamente, nona tappa da Morsina Voriazza a Saint-Jean-de-la-Maurien, 4 colli con il Col della Madeleine posto a 30 km dal traguardo. La situazione al momento, i corridori sono partiti da Morsina alle 11.30, ci sono 11 uomini al comando, tra questi due italiani, Rinaldo Nocentini, 8 giorni in maglia gialla un anno fa, e Damiano Cunego. L'inseguimento, il grosso del gruppo con la maglia gialla Cadel-Evans, staccati di 3 minuti e 15 secondi a tirare il gruppo l'ex campione del mondo e compagno di Cadel-Evans, Alessandro Ballan. È tutto da Saint-Jean-de-la-Maurienne, in linea allo studio. Grazie, ci risentiamo con te all'arrivo anche della tappa di oggi e intanto parliamo invece di spettacoli, perché parte questa sera da Monza il tour europeo di un gruppo storico. L'occasione è il Brianza Open Jazz Festival, che festeggia il decennale offrendo al suo pubblico l'appuntamento più importante del cartellone. Parte infatti da qui, questa sera, nel cortile di Villa Reale a Monza, il tour europeo di Pat Metheny. Prima data italiana di 8 concerti in varie città della penisola con il Pat Metheny Group. Il 56enne chitarrista del Missouri, che era stato a Milano appena 4 mesi fa con il suo grandioso progetto solitario denominato Orchestrion, torna questa volta alla testa del gruppo con cui ha ottenuto la fama. Il Pat Metheny Group, appunto, nato nel 1977 dall'incontro tra il chitarrista virtuoso e il ricercato tastierista Lyle Mays. Dalla mescolanza di suoni elettrici ed elettronici ai suoni acustici della tradizione jazz è nato così il Jazz Fusion. Giovedì, altro appuntamento con Pat Metheny ad Umbria Jazz a Perugia. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. E un saluto anche da Paolo Corleoni in regia, Anna Migliorati che ha curato e condotto questa edizione del giornale. Come sempre GR24 torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.